soave parlar, io non saprei al figlio desiar più degna sposa. Ah, cara madre, osserva, e questo è fiele dello sfamoso mostro che sviscerai nel tigri, deggio spremei nel succo, negli occhi al genitor. Dove rimane? E miseri or dispensa argento e pane. Addio. Dove? A Tobit, io non ho pace, se non compisco l'opra che da me attende il popolo d'intorno, degli infedeli a scorno, e per gloria e trionfo del nostro Dio clemente ed immortale. Alla tardanza esser potria fatale.